schiatto, ma ho corso un po' e non c'è più niente per correre. Allora, l'argomento è un argomento molto particolare, rivolto in particolare ai produttori, che però, essendo in una fiera, al momento sono impegnati a vendere il prodotto, però abbiamo pensato di fare lo stesso questo momento di discussione sulla certificazione del biologico, perché riteniamo che la certificazione è una di quelle tematiche che solleva molte discussioni, anche perché assistiamo negli ultimi anni ad un allontanarsi piano piano dalla certificazione biologico delle piccole aziende, che chiaramente trovano difficoltà a rispettare tutte quelle che sono le normative burocratiche e le normative, diciamo, che devono seguire per rispettare il disciplinare, rispettare tutte quelle che sono le regole per il biologico. In poche parole, perché io sono una persona di poche parole, come sapete le aziende biologiche si devono certificare al momento. La normativa prevede per l'Italia che ci sia una certificazione terza, cioè è un ente esterno, in particolare sono enti privati, che fanno la certificazione e certificano che quell'azienda segue determinate regole, segue determinati disciplinari che gli permette poi di poter utilizzare l'etichettatura del biologico, che come sapete da luglio dell'anno scorso è cambiata, ora c'è quella fogliolina stilizzata che è il nuovo simbolo del biologico. Come dicevo prima, però, questo fatto di dover ottemperare a queste regole e al fatto che la certificazione venga fatta da un ente terzo fa sì che tante volte i controlli e le certificazioni diventino quasi esclusivamente un aspetto burocratico, e tante volte l'aspetto proprio più pratico della certificazione delle aziende in molti casi, come dire, viene fatto molto velocemente. Quello che a noi interessa come AIAB Lombardia, come AIAB nazionale, è quello che, siccome riteniamo che la certificazione è, come dire, la questione sostanziale del biologico, debba essere una certificazione a tutti gli effetti. Quindi è forse meglio che il tecnico che va a fare la certificazione in azienda si dedichi di più alle analisi, allo studio dell'azienda, che invece a controllare se sono stati compilati determinati registri, se ci sono tutte le bolle di consegna, eccetera eccetera. In questo senso, come AIAB nazionale, da un po' di tempo a questa parte abbiamo aperto una discussione sulla certificazione, e da un convegno fatto l'anno scorso ne sono scaturite alcune proposte che sono così riassunte: la possibilità di fare una certificazione di gruppo, cioè quindi delle aziende che si mettono assieme, determinano delle regole al loro interno di questo gruppo, e poi chiaramente ogni azienda è responsabile di tutte le aziende che fanno parte di questo gruppo con un sistema interno di controllo. Questo permetterebbe il fatto che il controllo sulle aziende non viene fatto, viene fatto solo su alcune aziende, ma però sono le loro stesse aziende che si controllano tra di loro, chiaramente con un regolamento interno. L'altra proposta, questo della certificazione di gruppo, è una normativa è possibile portare anche al punto di vista legale, cioè quindi che diventi al più presto una normativa europea. L'altra proposta invece di cui discutiamo in particolare oggi è quella dei sistemi di garanzia partecipata, che sono dei sistemi che permettono ad associazioni, a produttori, a consumatori di fare una certificazione che per il momento non ha una normativa europea, ma che però dà la possibilità di partecipare a questo processo di certificazione a diversi soggetti, quindi il produttore, il tecnico, il consumatore. È una forma di certificazione che viene fatta nei paesi in via di sviluppo ed è riconosciuta. Attualmente in Europa non ha una normativa legale. Noi come AIAB nazionale stiamo sperimentando e abbiamo fatto delle esperienze di certificazione sistema di garanzia partecipata in Lazio e in Liguria, e per questo io introduco i relatori, che sono Alessandro Triantefillidis, che è presidente di IAB Liguria e ci parlerà di questa sperimentazione che hanno fatto, e Giuseppe Vergani del distretto della Brianza, distretto di economia sociale della Brianza. Abbiamo chiamato in particolare Alessandro perché vogliamo capire bene come esperienza, quindi avere proprio l'esperienza della Liguria, per capire eventualmente anche se è possibile anche in Lombardia partire con delle sperimentazioni, perché assieme ai distretti di economia solidale vorremmo, come IAB Lombardia, cominciare a sperimentare anche sul territorio lombardo delle esperienze di sistemi di garanzia partecipata. Io spero di essere stato chiaro, però sicuramente adesso Alessandro e Giuseppe lo saranno sicuramente più di me. Ti do la parola, Alessandro, poi adesso funziona. Microfono. Allora, buongiorno a tutti, Alessandro Triantafillidis. Dunque, sono agronomo e mi occupo praticamente da sempre, finiti gli studi, di agricoltura biologica. Allora, il tema di oggi è la certificazione partecipativa, che è un tipo di certificazione. Adesso non so come siete, avete già un'infarinatura di questo sistema, non ne sapete assolutamente nulla, vale la pena fare tre parole di storia. Allora, innanzitutto è una cosa interessante perché è un sistema di garanzia delle produzioni biologiche che non è nato in Europa o in America, dove il movimento biologico è nato prima di tutti, ma è nato in Sud America. Ed è nato in contrapposizione al fatto che mentre si sviluppava parecchio il mercato del biologico, si sviluppava anche una sorta di colonialismo da parte dei enti di certificazione europei e nordamericani, che andavano lì, certificavano loro la produzione fatta dai produttori locali, ovviamente anche a prezzi abbastanza alti per le qualità, per le disponibilità locali, e poi erano tutti i prodotti che venivano esportati. Quindi era il biologico fatto per i mercati ricchi. Okay? Quindi è nato tutto un movimento, soprattutto in Brasile, Colombia, poi si è sviluppato in quasi Argentina, in quasi tutto Sud America, di parlare di biologico innanzitutto a livello di mercati locali, e di affrancarsi dal discorso di una sorta di colonialismo degli enti di certificazione. Poi parte il fatto che dopo un po' di esperienza sono nati anche gli enti di certificazione brasiliani, eccetera, eccetera. Negli anni 90 inizia a mettere il biologico, già si parla e si produce in Sud America già negli anni 80, e gli anni 90 soprattutto. Di certificazione partecipativa è un qualcosa che si inizia a parlare all'inizio degli anni 2000. Soprattutto il Brasile è quello che fa da capofila con la rete Covida. Ecco, il caso del Brasile è molto in particolare perché ovviamente questo sistema di certificazione si contrappone al sistema di certificazione di parte terza, come diceva Eugenio. Quindi, cosa significa? Che un prodotto, per essere biologico, ha bisogno che ci sia una legge che definisce che cosa è biologico, e nella stessa legge bisogna definire come si certifica, come si controlla. Attualmente tutte le leggi mondiali, su questo sono armonizzate, dicono che ci deve essere un organismo di parte terza, cioè che non c'entra niente con l'azienda, che va a certificare che l'azienda fa biologico. Questi organismi sono tutti organismi privati quasi ovunque. In Europa, ad esempio, però c'è la Danimarca, la Finlandia, che invece è lo Stato che certifica, quindi non sono enti di certificazione privati. La cosa peculiare e interessante del Brasile è che il governo brasiliano ha riconosciuto i sistemi di garanzie partecipativi, che non sono sistemi di parte terza, si chiamano certificazioni di parte seconda. E poi c'è la certificazione di parte prima, che è l'autocertificazione, vuol dire io faccio bio, credici o no. Okay? Di parte seconda significa che non dico io che faccio bio, ma qualcun altro, un'associazione, una comunità, insieme a me, lo dice insieme a me. Ecco perché si chiama di parte seconda, perché comunque c'è una relazione con questa seconda parte, da parte del produttore. Il Brasile, il Costa Rica e mi sembra la Nuova Zelanda sono gli unici tre paesi al mondo in cui il sistema di garanzia partecipativo è riconosciuto dalla legge, e quindi chi viene certificato secondo questo metodo può chiamare il suo prodotto biologico. In Italia, in Europa ovviamente questo non può succedere. Adesso due parole sulla certificazione, del perché si arriva a sperimentare la certificazione di gruppo e anche la certificazione partecipativa, i sistemi di garanzia partecipativa. Il sistema di certificazione innanzitutto nasce dal mondo del biologico. Adesso sono passati 25 anni da quando il biologico è nato in Italia, anche più, e sembra che sia una cosa distante il mondo della certificazione. In realtà è diventato magari un po' distante perché è diventato molto più grande il mercato, si è ingrandito. Per sfortuna, per essere armonizzato col mercato mondiale, si è dovuto armonizzare con le varie ISO, quindi le procedure, tutte queste menate qui che non hanno fatto altro che portare il controllo dal campo alla carta, ok? Anche la carta è importante, soprattutto per le medie e grandi aziende, ok? Non solo il campo, ma anche la carta. Per il piccolo produttore la carta diventa un problema. Soprattutto per chi diventa un problema, non per chi ha un'azienda piccola ma fa solo, ad esempio, una sola coltura, fa l'olivo, si certifica, è una certificazione molto facile anche dal punto di vista burocratico, ma da mantenere. Se è una piccola azienda, come spesso è, e ha un grandissimo valore sociale e territoriale, fa l'allevamento zootecnico, ha le api, coltiva l'orto, fa il frutteto, trasforma la marmellata, magari fa pure l'agriturismo, ecco, questa azienda qua col sistema attuale un po' impazzisce, ok? Quindi sono soprattutto le aziende piccole, miste, molto diversificate, che soffrono molto il discorso della certificazione come è organizzata attuale. Però non scordiamoci che la certificazione non è venuta da un regolamento comunitario, quello l'ha solo, diciamo, legalizzata e organizzata. La certificazione è nata col movimento del biologico. AIA è nata nel 1987 con tutti i gruppi italiani del biologico, si chiamava all'epoca Cos'è Biologico, e si definivano insieme gli standard e si definiva anche come garantire al consumatore, che faceva parte di questi movimenti, che cos'è biologico, come certificarlo, come renderlo evidente in etichetta, come dare garanzia al consumatore. Ovviamente poi il mercato è cresciuto, le cose sono un po' separate, eccetera. E però non dimentichiamo che la certificazione non è l'elemento fondamentale del biologico. Il biologico, l'elemento fondamentale è chi lo fa e chi lo consuma, come si fa e come si consuma. La certificazione è esclusivamente un metodo, un mezzo. Ok? E come è strutturato adesso il mercato si nota, e noi lo notiamo attraverso i nostri soci, parlando anche con consumatori, insomma, vedendo come va il mondo e vedendo come va anche il mondo agricolo, il sistema come è stato studiato attualmente è rigido, cioè è veramente rigido, e o tu sei dentro e ce la fai o tu te ne esci, come spesso succede alle piccole aziende. Quindi noi abbiamo bisogno di strumenti più elastici. Come è studiato adesso il sistema di certificazione non è male assoluto, assolutamente. È rigido, non va bene per tutte le situazioni, non va bene soprattutto per le piccole aziende che fanno anche tante cose e che hanno un grandissimo valore più biologico, grandissimo. E noi in queste le stiamo in parte perdendo con altri modi di certificazione, autocertificazione, queste cose qua. Quindi bisogna studiare, lavorare su altri strumenti per certificare. Si vede che lo strumento che abbiamo avuto fino adesso non basta. Ecco perché siamo aperti a due altri sistemi. La certificazione di gruppo, giusto per fare due indicazioni, che già aiuterebbe tantissimo ed è lo step più facile da fare verso la legislazione. E, parentesi, fare biologico in Europa è dettato da un regolamento europeo. Questo significa che fare biologico qui, come in Finlandia, come in Bulgaria, si fa la stessa maniera, le regole sono identiche, ok? Certificazione di gruppo. La parentesi mi ha fogliato. la certificazione di gruppo, il regolamento europeo già la garantisce, ma esclusivamente per i prodotti di importazione da paesi terzi. Quindi va bene per i prodotti ecosolidali di certificazione di gruppo, ma in Europa non va bene, e questo è una roba assurda. In Europa è la singola azienda, anche piccola, che si deve certificare da sola, e lei deve avere le visite da parte delle enti di controllo. Quindi la certificazione di gruppo basta ampliare dal ok per dell'import a renderla possibile in Europa, che è già il primo passo che aiuterebbe tantissimo, ad esempio, i piccoli produttori che fanno in un'area omogenea delle produzioni omogenee. Okay? Non basta, perché la piccola azienda che è da sola, che si può associare, che magari è in una situazione in cui è l'unica che fa colture molto diversificate, come ho detto prima, la certificazione di gruppo non gli serve. Soprattutto un'azienda che poi fa solo vendita diretta e che quindi non ha bisogno del marchietto, non deve per forza associarsi insieme agli altri. Ecco allora che la certificazione, i sistemi di garanzia partecipativa sono lo strumento adatto per questa situazione. Ovviamente, perché tutti questi sistemi arrivino un giorno a essere legalizzati in una normativa, ammesso che interessi o meno, a me interesserebbe, interessa come AIEB, semplicemente perché se noi vogliamo cambiare l'agricoltura, è meglio che tutti coloro che pensano che l'agricoltura deve essere cambiata vadano nella stessa direzione e siano all'interno, chiamiamo, dello stesso movimento, anche se molto diversificato. Se noi ci dividiamo continuamente, il modello di agricoltura rimarrà industriale, rimarrà convenzionale, e noi faremo solo le classiche nicchie. Ok? Quindi i sistemi di garanzia partecipativa. Fatto questo preambolo, che cosa consiste? Sono strumenti molto flessibili, che significa che possono essere abbastanza diversi dalle zone, indipendentemente dalle zone in cui nascono. Mettono insieme i produttori e i consumatori, i produttori organizzati e i consumatori organizzati. Spesso ci deve essere un legame, magari anche perché gli aspetti formativi all'inizio di questo sistema sono veramente importanti, di un supporto tecnico. Okay. In Europa si sono fatte diverse sperimentazioni, ma il paese dove la certificazione partecipativa funziona da anni, è una nicchia abbastanza piccola ma estremamente forte, è l'associazione Nature Progrès. Nature Progrès, che era un'associazione storica del biologico francese, che poi però si è separata assolutamente dal discorso del sistema di controllo. Ovviamente un criterio fondamentale perché riesca il sistema di garanzia partecipativo è che la vendita dei prodotti avvenga in maniera diretta, cioè che non ci siano intermediari. È difficile pensare a un sistema di garanzia partecipativo di un prodotto che poi vada alla Coop, a parte che non ha senso alcuno, ma neanche che vada in una natura sì, e da vedere e da studiare se può andare in altri tipi di negozi. Quindi il primo concetto è la vendita diretta, che può essere anche alle mense scolastiche, eccetera, una certificazione di piccole aziende e soprattutto il connubio molto forte con il consumo, con la parte di consumo, mediato anche da una parte tecnica. Come abbiamo operato in Liguria? Allora, innanzitutto, come oggi, abbiamo fatto un seminario, un Fa la cosa giusta di Genova di 3 anni fa, facendo venire un tecnico spagnolo che aveva lavorato con i francesi, che aveva lavorato in America Latina. Abbiamo trovato molto interesse da parte dei GAS, un discreto interesse da parte di alcuni produttori che erano a questo convegno. Allora, ci siamo detti, andiamo oltre. E abbiamo fatto un piccolo corso, questo l'anno scorso, in parte una didattica in aula. Abbiamo creato dei gruppi di visita, abbiamo fatto delle elaborazioni su come poteva funzionare il sistema e abbiamo provato una simulazione. Non siamo ancora arrivati ad avere un sistema di garanzia partecipativa, ci stiamo lavorando anche noi, nel senso si inizia prima e veramente ce n'è bisogno, perché il biologico, il sistema di certificazione, come procedere a fare il controllo, eccetera, sono comunque materie sia per i consumatori sia per i produttori importanti. Quindi l'aspetto formativo prima di iniziare direi che è fondamentale. E, in estrema sintesi, come funziona? Anche se non è la ricetta unica, nel senso che le ricette possono essere molteplici. Ovviamente ci deve essere una sorta di comunicazione dell'azienda che vuole entrare a far parte del gruppo, dell'associazione, della cooperativa, vediamo come si può sviluppare, che opera attraverso il sistema di garanzia partecipativa. Comunica i dati dell'azienda, quindi fa una sorta di notifica di identikit dell'azienda, esattamente come viene fatto adesso per entrare nel sistema di controllo. L'associazione già creata, in cui ci sono sia produttori, sia consumatori che tecnici, in Italia perlomeno in un ambito europeo abbiamo pensato che queste sono le tre figure importanti: produttori, tecnici, il tecnico, perché non è che c'è bisogno di una moltitudine, e i consumatori. Si crea un gruppo di controllo, che in questo caso non è più una singola persona che va nell'azienda e quindi in maniera molto soggettiva, in base a delle regole, definisce la cosa, ma è un gruppo di persone. A monte di tutto, ovviamente, viene stabilite le regole. Cioè, quali sono gli standard che noi vogliamo far seguire al nostro sistema di garanzie partecipative? Come AIAB, ovviamente, pensando a un sistema di garanzia partecipativo che nel lungo periodo arrivi a essere una cosa legalizzata, okay? Un sistema dal basso ma che venga legalizzato, non si può non esimersi dal partire con quello che è biologico a livello europeo, cioè la definizione e le regole del biologico a livello europeo, con alcune semplificazioni che sono assolutamente necessarie, perché il regolamento europeo ha un sacco di deroghe, di deroghine, eccetera. Una deroga, ad esempio, importante che noi vorremmo introdurre come AIAB, che fa comunque la differenza, è che l'azienda non può essere un'azienda agricola mista. Il regolamento europeo adesso permette che un'azienda possa essere in parte biologica e in parte convenzionale. Ovviamente deve essere separato, campi separati, tutto quello che si vuole, colture diverse, però un'azienda lo può essere. In un sistema di garanzia partecipativa questo non può esistere. L'azienda diventa tutta bio. Oltre a questo, però, ci sono tanti altri aspetti che nel regolamento biologico non vengono minimamente colti, che sono tutti gli aspetti sociali, gli aspetti del lavoro, gli aspetti del territorio, della filiera corta. Ecco, tutti questi extra fondamentali in un sistema di garanzia partecipativo possono essere messi negli standard. Quindi, ricapitolando, primo, ci deve essere questa associazione tra produttori e consumatori. L'ideale è dove c'è un tessuto, che dove già ci sono dei produttori che forniscono il gas, classico. Poi insieme si stabiliscono le regole. Che cos'è fare biologico? Come lo garantiamo? Nelle regole dobbiamo mettere anche i vari passaggi. Quindi come si fa il controllo? Allora, il controllo nei sistemi di garanzia partecipativi si fanno in gruppo. Quindi c'è un gruppo di persone che piglia e va. Nella nostra, sia nel Lazio che nella Liguria, e anche negli incontri che abbiamo fatto, l'idea nostra, poi ovviamente ognuno può avere la sua, è che il gruppo deve essere organizzato con un produttore, e deve essere un produttore che non sia in conflitto di interessi con l'azienda che va a visitare. Deve essere però della stessa indirizzo produttivo, quindi se uno alleva animali, fa latte, deve essere visitato da un produttore che fa il suo stesso mestiere. Ovviamente, non si manda uno che fa orticoltura, perché sennò aiuta poco. Anche perché la grande idea che è stato il grande servizio che faceva anche una volta la certificazione, e adesso per legge non può più fare, è che all'inizio la certificazione dava una mano all'azienda facendoli anche crescere dal punto di vista tecnico dell'azienda, cioè gli dava, a parte le prime aziende pioniere, chi iniziava era un'azienda chimica convenzionale che voleva fare biologico, quindi aveva bisogno di aiuto. E dove lo trovava l'aiuto? Da chi andava a fare il controllo, che all'inizio aiutava. Il discorso delle ISO, la certificazione deve essere parte terza, nessun tipo di relazione tra tecnico, azienda, eccetera, eccetera, hanno fatto sì che questo non deve assolutamente esistere. Ora che il mercato si è ingrandito, insomma, questa è la situazione. Per l'azienda che entra in un sistema di garanzia partecipativo, avere un tecnico, sia un tecnico, sia un produttore che vanno in azienda a visitare e gli danno nel contempo, gli dicono come, diciamo, controllano, sì, ma magari esistono dei problemi. Dove trovi la soia che non è OGM? Dove trovi un mangime che abbia delle ottime qualità nutritive senza avere rischi di contaminazione, eccetera? Piuttosto che cosa fai contro i vermi dei caprini? Tutte queste cose qua, in una visita, si possono tranquillamente discutere. Sono cose importantissime se si vuole far nascere il movimento, se si vuole ingrandire ancora di più il movimento. Quindi un produttore, un tecnico che nella nostra idea e simulazione deve andare perlomeno per le prime tre visite. Poi, una volta che sia il produttore sia il consumatore sono abbastanza avvezzi alla visita, hanno fatto esperienza, volendo, le visite successive possono andare anche senza i tecnici. I tecnici, la figura del tecnico, come potrebbe essere dell'AIA, perché comunque oltre ai produttori e consumatori abbiamo anche i tecnici della nostra base associativa, è quello soprattutto della prima fase di formazione, di definizione delle regole e poi di sostegno. Ma poi la cosa deve andare avanti da sé, devono essere i produttori e i consumatori a far andare avanti la cosa. E poi ci deve essere un consumatore, un membro del GAS, comunque una persona che acquista i prodotti. E che quindi, altra cosa interessante, è il controllo che si fa tra le aziende, cioè le persone del mondo del consumo che vanno nelle aziende, le mettono anche in relazione l'azienda con quello che fa quell'altro, mettono nella visita e nel dialogo con il produttore anche delle questioni, ad esempio gli aspetti sociali, gli aspetti etici, gli aspetti di riciclaggio dei rifiuti, che magari il tecnico produttore possono avere, possono non avere. Quindi si completa molto, diciamo, il bagaglio dell'esperienza. In Liguria noi quello che abbiamo fatto è abbiamo fatto un gruppo di tre persone che ha fatto la visita. In realtà poi siamo andati tutti, qui eravamo in 12, siamo andati in azienda perché tutti erano interessati, però la visita l'hanno condotta in tre. Quindi c'era l'allevatore Mocia spagnola, c'era un produttore, siamo andati in un'azienda zootecnica, quindi c'era un produttore zootecnico e poi c'era un consumatore. Tutti assistevamo, ma tutti gli altri vanno a star zitti, vabbè, c'erano ovviamente domande, eccetera, però loro tre, con una sorta di questionario, di guida, di domande, con anche delle domande aperte, dovevano fare la visita. Allora, è stata interessante. Diciamo che siamo andati in un'azienda in cui il produttore era assolutamente in sintonia con queste cose, quindi magari vedo un produttore che dice siamo stati lì un pomeriggio, quindi diciamo la cosa è stata molto lunga, però è stato molto interessante sicuramente. Tutto questo viene registrato su una modulistica. Anche questo può essere vario, può essere flessibile, si può fare una visita utilizzando il video anche, per esempio. In India, dove il sistema di garanzia partecipativa sta andando a mille, sta avendo uno sviluppo clamoroso, ad esempio dove i produttori spesso non sanno neanche, comunque non capiscono le modulari iscritti ma spesso sono analfabeti, o comunque non posso firmare una cosa che non capiscono, deve fare una dichiarazione di entrata, di stare alle regole descritte del sistema, con un video, quindi si mette davanti al video, dice io ho capito quello che devo fare, e sostengo, cioè entro nel sistema e lo approvo, ci sto dentro. Quindi ovviamente si usa tutto al massimo della flessibilità in questi sistemi. Cosa succede dopo che c'è stata la visita? Si crea una commissione, funziona così anche il sistema di certificazione terza, solo che la commissione di controllo che si crea anche nel sistema di garanzia partecipativa è locale, non sta a Bologna o a Roma con persone che manco sanno la persona che è stata certificata. In quella nella nostra sperimentazione ligure abbiamo deciso che ci stanno due produttori, un tecnico e due consumatori, 5 persone. Si riuniscono 3 volte all'anno, poi se le esigenze sono maggiori anche di più, ricevono il verbale del controllo. Ovviamente chi ha fatto la visita non deve essere lo stesso che sta nella commissione di controllo. Si analizza la cosa, se ci sono delle questioni tecniche abbastanza rilevanti può essere anche convocato il produttore stesso, cosa che ad esempio nel sistema di certificazione attuale terzo il produttore non va mai in commissione di certificazione. Quindi in teoria la cosa è più libera, lo puoi convocare. Ad esempio nel nostro sistema siamo andati a visitare un'azienda che alleva capre e bovini a razza di estinzione e asini, insomma nelle alture di Genova, fa un buonissimo formaggio, caseificio per il turismo. Il caseificio non è certificato, lui fa tutto bio da sempre, da quando è nato. Il caseificio non è certificato perché il suo latte è bio, ma avendo un sistema oneroso dal punto di vista finanziario, e dato che la lattazione delle capre non dura come quella delle vacche, ma dura 250 giorni, quindi cosa fai? Hai una struttura che ti costa, che certifichi e stai 100 giorni all'anno fermo? Non è ammissibile. Quindi acquista latte dal vicino che fa latte bovino. Lui non si certifica, o perlomeno non è ancora riuscito a certificarlo. Quindi fa due linee separate, sul formaggio caprino e da latte biologico, ma non lo può certificare biologico. E il latte bovino non è certificato, anche se non è, cioè, è molto vicino alla certificazione. Grande dubbio. La commissione di certificazione, cioè l'azienda è biologica in tutto, fa attività biologica, fa vendita diretta, altro rispetto a quanto avevamo pensato noi, altro problemino, vende ai negozietti della valle, che non è propriamente diretta, anche se insomma siamo molto vicini. Questa cosa qui abbiamo deciso di bypassarlo, cioè i negozi vicinali, anche per il ruolo sociale importante che hanno sul territorio, sono assolutamente equiparabili alla filiera corta. E l'altro problema in teoria però non starebbe all'interno del sistema, perché noi abbiamo deciso di essere assolutamente dentro il discorso del regolamento europeo dell'agricoltura biologica. Quindi se l'azienda vende prodotti trasformati come il formaggio, questi devono corrispondere ai criteri del biologico. Quindi cosa si è simulato per il sistema ancora da crescere? Si è simulato che per adesso, dato che comunque non è un sistema che puoi chiamare il tuo prodotto biologico, a tempo un anno nel quale il gruppo darà anche assistenza per far sì che di convincere il produttore di latte vaccino entrerà nel sistema di certificazione di controllo partecipativo, di garanzia partecipativa, e quindi diciamo dare il via al benestare alla sua entrata definitiva nel sistema. Quindi ricapitolando, il gruppo, le regole in parte già definite, e l'idea che potrebbe nascere quella che ci sia uno standard comune, sarebbe bello, perché sennò il grande problema che potrebbe esserci, che vedo io perlomeno, dal mio punto di vista del sistema di garanzia partecipativa, è che tutti si parte e si fanno degli standard totalmente diversi uno dall'altro, ognuno fa il suo orticello, a livello di movimento, a livello di modifica della PAC, della politica agricola comune, di come deve evolvere il sistema agricolo mondiale. Non so quanta rete si faccia. E quindi bisogna cercare di avere un minimo comune denominatore dal punto di vista tecnico. Poi ci sono tutti degli aspetti invece extra, come si fa bio, che sono gli aspetti del lavoro, etici, dei sistemi di consumo, che questi invece possono essere altamente variabili da un gruppo all'altro. Come fare scambio, eccetera, eccetera. O addirittura le regole interne di come fare le visite di certificazione. Regole, gruppo di visita, anzi è meglio avere dei gruppi di visita, quindi più produttori disponibili a fare le visite, più consumatori disponibili a fare le visite e magari anche qualche più di un tecnico disponibile a fare la parte tecnica. Commissione di controllo. Alcuni, tipo i francesi, hanno l'assemblea una volta all'anno di tutto il sistema, cioè tutti i produttori, tutti i consumatori, i tecnici partecipano al sistema, una volta all'anno fanno l'assemblea, che è una situazione conviviale, ma una situazione anche per rivedere le regole. Le regole disciplinari sono sempre dinamici, quindi hanno sempre bisogno, ma sarebbe il caso di cambiarle una volta all'anno, perché sennò si crea un gran casino. Ma ogni tanto la discussione su cambiare, anche il regolamento europeo cambia, queste sono cose assolutamente fondamentali. Quindi io direi di non farla troppo lunga, perché poi facciamo domande. Esatto. Allora io adesso passo la parola a Giuseppe, poi eventualmente si possono fare delle domande e allarghiamo la discussione. Giuseppe del DES di Monza. Ciao a tutti, molte cose ha già detto Alessandro, quindi conto di, nonostante la mia tendenza alla digressione, a essere abbastanza breve, poi magari ne parliamo un po' anche perché non siamo molti. Allora, Giuseppe, distretto di economia solidale della Brianza. Non sono un agronomo, non sono un produttore, nessuno è perfetto, ma insomma, sono un gasista e come tale intervengo su questi temi. Da dove viene l'interesse dei distretti di economia solidale e dei gas per questi sistemi di garanzia? Dovremmo abituarci a chiamarli così, garanzia e non certificazione, anche dopo proviamo a parlarne un momento. Anche se mi scapperà, ma voi fate la traduzione, scappa certificazione, ma è garanzia. Allora, questo avvicinamento nasce da un momento lungo, ormai sono un paio d'anni che ci ragioniamo sopra, che ha alla sua base un pensiero critico rispetto al tema della certificazione. Partiamo da qua. Nel preparare l'Assemblea Nazionale dei Gas e dei Distretti di Economia Solidale di Osnago nel 2010 si rifletteva su un tema che attraverso i gas più o meno, voi insomma li conoscete immagino, che attraverso i gas più o meno dalla loro nascita acquistiamo prodotti certificati, solo certificati oppure qualunque cosa va bene. Questa è una roba che se uno in un gas prima o poi gli è capitato di discutere, no? E lì ci sono le varie scuole di pensiero, no? Voglio il bollino perché quello mi garantisce, come faccio a scoprire, facciamoci noi le analisi, no? Poi ogni tanto ci sono anche queste uscite, no? Quindi da un lato delega un tecnico esterno, dall'altro incorporiamo noi la competenza, no? Controlliamo noi l'analisi, dall'altra no? Quelli che dicono quello che conta è la conoscenza, la vicinanza, no? Io lo conosco, va bene così, no? E questo però gli altri dicono, beh grazie, ma non è che tu con la stretta di mano e il bicchiere di vino, no? Decidi, e questo è un meccanismo che apre le porte all'opportunismo, no? Soprattutto di questi tempi in cui ormai di alimentazione e agricoltura non sa più niente nessuno, soprattutto non ne sa niente i consumatori che non hanno avuto modo di fare esperienza di agricoltura vicinale, no? Dopo una generazione in fabbrica dei nostri genitori non sappiamo più niente dell'agricoltura, no? E ci si chiedeva, a fronte di questa esigenza, il bollino, la certificazione di parte terza è la risposta al bisogno dei gruppi di acquisto solidale? Allora, la certificazione di parte terza, come ci ha spiegato bene Alessandro, ha alla sua base, e funziona così, la separatezza e la distanza. Voi andate in un supermercato da un produttore, vedete un bollino, quel bollino, il simbolo del biologico, è definito a livello europeo, quindi in modo molto distante, no? In un luogo molto distante dal posto dove lo comprate, con regole che sono molto astratte, no? Parte da, no? come ci diceva prima, sono uguali per tutti, vengono stabiliti in una sede, passatemi il termine, molto terza. Cioè molto è come le ISO 9000, no? Stanno in un luogo che sono così distanti dal luogo dove vengono applicate, no? Questo è fonte di garanzia. Se la certificazione adesso è il supermercato dove lo comprate, voi vi fidereste uguale? Immagino di no. Ma la separatezza tra produttore e consumatore è l'esatto opposto del ragionamento che fa il gas. Quindi dice, io lo devo conoscere, devo andare a vederlo, devo capire cosa fa. Prima questione, allora, quel bollino è quello che funziona per il gruppo di acquisto. Seconda questione, che anche questa è già stata affrontata, il tema della certificazione come momento discreto, o sei certificato o non sei certificato. Oggi, ereditando un movimento, cioè un movimento di pensiero che viene da lontano, che riguarda tutti i temi della qualità, e certificare da parte terza vuol dire proprio che io non ho nessun coinvolgimento col tuo processo, arrivo, vedo se rispetti quello, no. Più sono neutro rispetto a quel controllo, meglio è, no? Quindi a un bel momento, alla fine del controllo, o sei certificato o non lo sei. I GAS ragionano così. Noi vediamo invece nei GAS un percorso di avvicinamento graduale, ci stanno attaccati dal produttore, vogliono capire cosa fa e crescono insieme e imparano e vanno a vedere, no? Non è dentro fuori, è vogliamo raggiungere un obiettivo, c'è un meccanismo di gradualità, c'è un accompagnamento, un percorso. Per questo bisognerebbe usare il termine di garanzia, no? E non di certificazione. Non posso certificare un po' di qualcosa, posso intanto garantirne una parte. Quegli esempi che diceva Alessandro di sono molto interessanti, che si usano in India, dove appunto il produttore analfabeta si registra il video. Il produttore registra un impegno, farò così. Nella certificazione di parte terza questa roba è inammissibile. Va bene, farai così, insomma sono affari tuoi, quando l'hai fatto io torno e ti certifico. Anche questo è un modello molto diverso dal modello partecipativo e di contiguità tra produttore e consumatore che GAS auspica. Il modello di certificazione del biologico certifica solo il biologico, come giusto che sia. Il bollino, certificazione di parte terza, ci dice che quel prodotto è fatto secondo determinati criteri culturali di produzione, non ci dice niente rispetto alla al rispetto del lavoro, dell'ambiente, alla tutela del suolo, non intesa come uso di inquinanti ma come presidio contro il consumo di suolo. Tutte cose che se siete in un GAS di cui vi occupate continuamente. Pensate al dibattito che ha attraversato un po' anche i nostri contesti sulle arance di Rosarno. Qualcuno si chiede, cioè, il problema nostro nei GAS era se quelle arance erano biologiche o no. Il problema primo, non che non lo fosse, ma in testa alla questione c'era se c'era il rispetto, la dignità dei lavoratori. Quindi, tre elementi, no? La contiguità, la gradualità e l'apertura, l'ampiezza del dominio della certificazione, che ci hanno fatto dire, beh, forse il dibattito non si esaurisce bollino sì, bollino no. Le reti dei GAS e i GAS hanno iniziato allora a pensare a possibili modelli altri di certificazione o di garanzia, incontrando la sperimentazione sui sistemi di garanzia partecipata, che sono parsi subito molto più vicini a questo approccio. Sistemi che abbiamo conosciuto dal sito di IFOAM, quindi dalla sperimentazione che si fa nel resto del mondo, l'esperienza di francese, avvicinandosi un po' a questi temi abbiamo incontrato poi IAB e la sperimentazione in Italia, da cui andremo poi a parlarne alla fine, la sperimentazione che avvieremo ora sui territori. La cosa interessante dei sistemi di garanzia partecipata, oltre a tutto quello che è già stato detto, ma che lo rendono particolarmente adatti a nostro modo di vedere, alla, come dire, particolarmente adatte al modello di relazione, non di consumo, al modello di relazione che istituisce un gas con i suoi produttori, è proprio intanto che non sono modelli alternativi al biologico. Questo è importante, sono modelli complementari. Nessuno dice adesso decidiamo noi che cos'è biologico. Sullo sfondo rimane sempre, questo è bene sottolinearlo, perché a volte ci, no, alcuni ci si dice no, ma allora uno certifica quello che gli pare. No, la base è quella. Sono sistemi che partono dalla medesima regolamentazione. Anche perché quella regolamentazione non è frutto di un legislatore astratto, ma insomma dietro il movimento del biologico c'è un movimento culturale, politico che viene da lontano, che porta con sé e ha portato con sé valori importanti, non solo no, l'uso o il non uso di determinate sostanze in agricoltura. Quindi qual è la base? Il problema è che è rigido, abbiamo detto. Noi abbiamo bisogno di un sistema più flessibile, che però possa essere riconosciuto. Viceversa, questo è bene dirselo, tanto siamo tra amici, insomma, viceversa si può cadere spesso nella retorica ingenua della filiera corta. No? Ti conosco, un bel bicchiere di vino, no? E lì si risolve il tema della garanzia del processo. Forse era vero all'inizio, oggi che di filiera corta parlano ovunque, ma questo è un meccanismo canonico del modello economico in cui siamo immersi, in cui si è capito che quella è una nicchia di mercato, quindi non ne parliamo più solo noi, ma abbiamo preparato il marketing delle grandi catene distributive. Oggi Walmart, il più grande supermercato al mondo, ha lo scaffale della filiera corta. Per loro è una nicchia di mercato, benissimo, c'è sempre uno scaffale per la nicchia di mercato. Noi stiamo dicendo un'altra cosa. Vogliamo un approccio rigoroso e partecipato, perché dentro in quell'approccio rigoroso e partecipato c'è una possibilità di trasformazione del territorio, perché vuol dire mantenere un certo modello di agricoltura sul territorio, fatto di piccoli, vicini alle situazioni urbane, no? Che consentano di valorizzare quel ruolo di presidio culturale, ambientale, ecologico, che una certa agricoltura può, non tutta, una certa agricoltura può rappresentare per i territori. E oggi, soprattutto qua dove parliamo, soprattutto nella Brianza che conosco io, rappresenta un baluardo, l'ultimo baluardo contro il delirante consumo di suolo che stiamo vivendo. Oggi la produttività dell'agricoltura locale, dell'agricoltura periurbana si chiama, a me non piace questo termine, no? C'è al centro la città e alla periferia l'agricoltura. Noi potremmo pensare alle città come perirurale, no? Però nessuno dice mai. L'idea che ci sia un'agricoltura lì, no? E che sia produttiva e che quindi per gli agricoltori che ci stanno sia ragionevole restarci, no? Non sia eroico, sia ragionevole. È una garanzia che possiamo approssimare anche con questi meccanismi. Sono uno strumento. Uno strumento di cui, e qui andiamo agli elementi di conclusione su cui poi possiamo dibattere, un elemento di garanzia paracontraddittorio, ma di cui i gas non hanno bisogno. Perché i gas dovrebbero mettersi a fare quello che ha detto lui, ha detto Alessandro? La commissione di controllo, la commissione di visita, eccetera. Non ne hanno bisogno i gas. I gas già i loro produttori li conoscono, c'è una continuità, no? C'è una prossimità. La cosa interessante è valorizzare in termini di realtà locali queste relazioni, dare a questo capitale di relazioni uno sbocco verso l'esterno. Per il loro consumo i gas non ne hanno bisogno. La cosa importante è capire che quel capitale di relazioni che i gas hanno accumulato, di vicinanza con i produttori, tramite questi sistemi può aprirsi a mercati locali e iniziare a contaminare il territorio, a trasformarli. Prendete l'esempio della fierucola di Firenze. qualcuno delle esperienze di garanzia partecipata in Italia interessanti, è fatto anche per il gas, ma è un mercato aperto, no? Vendita diretta, ma non solo ai gruppi. Però i gruppi possono fungere come hanno funzionato in tante situazioni, i gruppi di acquisto solidali possono fungere da attivatori, possono attivare questi meccanismi, no? Portare quei prodotti su mercati locali garantiti da quelle relazioni. Ci sono io che consumo quei prodotti da tempo con il mio gruppo, no? E posso dirti, con la mediazione di un sistema che rende questa garanzia rigorosa e trasparente, no? Che quelli sono prodotti di cui ti garantisco la qualità. Quindi valorizzare il capitale delle relazioni che GAS hanno costruito con i loro produttori, dico loro tra virgolette, perché c'è anche un termine affettivo ormai con molti di questi, e portarlo sui mercati locali, attivando, e questo è l'altro elemento forte, aperture del dominio di certificazione oltre la certificazione del biologico, ma anche, e questo è molto variabile a seconda del territorio, ma anche sugli aspetti che dicevamo prima, la tutela della dignità del lavoro, il presidio di biodiversità, la garanzia del patrimonio genetico, tutta la questione dei semi, su cui si potrebbe parlare a lungo. Come si fa tutta sta roba? Si fa sperimentalmente. Oggi in Italia, questa è una delle prime esperienze che abbiamo sentito, ma non c'è un modo, voi andate a guardarvi la documentazione, che per fortuna è copiosa sul tema, c'è molto report delle esperienze fatte, sono ben documentate, vedete che ognuna è diversa dalle altre, no? Partono tutte da un dominio di regole comuni, no? Ma poi a seconda dei territori, a seconda della biodiversità sociale anche che c'è sui territori e nelle relazioni, si caratterizzano in modo diverso. Si fa sperimentalmente. Avvieremo con il 2012, a partire dai territori di tre distretti di economia solidale, Brianza, Varese e Como, l'isola qua, l'isola che c'è, uno dei partner capofila di questa sperimentazione, con AIAB, perché, come dire, non siamo noi a inventare come si certifica o cos'è biologico, no? E questa partnership è fondamentale. Iniziamo una sperimentazione locale, vedremo di capire su quale tipologia di prodotti farla, sarà probabilmente su quello che più risponde alle necessità dei GAS, incorporandole nelle filiere che dai GAS sono sostenute, perché questo è un elemento centrale. Non andiamo a certificare qualcosa che poi non ci mangiamo, no? Certifichiamo qualcosa che garantiamo qualcosa che è già è negli acquisti o di filiere che sono sostenute dai GAS. Lo faremo sperimentalmente con la partnership di AIAB su questi tre territori. Vedremo, questo è il messaggio. Crediamo che sia un passaggio sperimentale da fare, sapendo che sono uno strumento, quello che sta a, come la certificazione di parte terza, come il bollino non è un valore in sé, la garanzia partecipata non è un valore in sé, questo è bene tenerlo sempre presente. Quello che ci consentono di fare questi strumenti è trasformare, avviare al cambiamento un modello di relazioni territoriali basato sui consumi e riportarlo nel dominio delle relazioni tra le persone. Questa è l'aspirazione dei GAS e questo è un pezzo del nostro percorso. Finirei qui e lascerei poi le domande. Allora, io direi, se ci sono delle domande, perché come vi siete resi conti, l'argomento è un argomento innovativo, nel senso che e anche sperimentale, perché attualmente in Italia poche sono state le esperienze, però noi come AIAB nazionale, come AIAB Lombardia, ci sentiamo e abbiamo aderito a questo progetto proprio perché pensiamo che la certificazione partecipata abbia un significato di garanzia di tutti quei valori che diceva Giuseppe. Se ci sono domande diciamo in merito, potete tranquillamente farlo. Una curiosità, visto che si è parlato che dal 2012 si avvierà la sperimentazione su alcuni prodotti, sì. Ecco, e visto che Alessandro rimarcava il ruolo fondamentale della formazione, sì. Ecco, a riguardo siete già partiti con la formazione, una cosa che appunto farete, adesso dal 2012 partirete con la formazione, dopo un tot di mesi, insomma sì, questo qui mi interessava capire proprio la prima raccogliamo un po', sì sì, anzi forse sì, mi presento anche, mi sono dimenticato, sì, sì, che certo. Scusa, sono Nicolino del gas, di un gas, vengo da Brescia perché si parla dell'Intergas, abbiamo saputo che è un gasista, gli rispondo subito, gli faccio sì. Un po' di pubblicità, se non ho parlato proprio ieri con uno dell'Intergas bresciano. Allora la formazione sarà il primo quadrimestre, anche se qualche elemento l'abbiamo iniziato a mettere lì durante l'ultima edizione di Agriculture a Como, abbiamo fatto proprio un seminario dedicato ai sistemi di garanzia partecipata con Eva Torremoccia, oggi sentiamo questa esperienza come un elemento di formazione importante. Il 15 ottobre tutti i gas, i produttori e le reti sono invitati a Cuminda. Dentro Cuminda avvieremo questo coordinamento regionale produttori-consumatori, quello che vogliamo chiamare patto per la terra e per il cibo a livello regionale, anche di questo percorso IAB è un partner con noi, Civiltà Contadina è l'altro. Dentro in quel contesto ragioneremo anche di questo, cioè si presenterà questa sperimentazione, vedremo di collocare dei momenti formativi, perché è la base, no? Difatti parlando nell'ultima assemblea Gas Des all'Aquila, nel gruppo di lavoro su questo tema, si è sottolineato molto il ruolo il passaggio di apprendimento collettivo che questi strumenti garantiscono, no? Quindi si farà, teniamoci in contatto. L'idea di fare un coordinamento regionale prima di partire la sperimentazione ha proprio questo senso. Qualche altra domanda? Dal punto di vista dei costi, aumentare tutti questi organismi di controllo non aumenta i costi per il produttore per avere una certificazione? Parli della certificazione attuale di parte partecipativa. Allora, infatti, il grande problema che non abbiamo toccato scusate, è che comunque un costo tutto questo sistema lo deve avere, perché comunque è vero che si basa sul volontariato, ma alla fine se il gruppo è grande, tante ore di tempo, sia un produttore, soprattutto un produttore, sia il tecnico, sia il gasista o il consumatore che comunque ha il suo lavoro e già spende tanto nella vita del gas, non è che abbondi, ok? E l'idea, adesso come l'abbiamo studiata noi, anche se ovviamente va perfezionata, questo è un tema importante, è il tema cruciale secondo me, perché le cose nascono spesso come progetti, quindi hanno un minimo di sostegno per fortuna per partire, ma poi si devono reggere ovviamente da soli. Allora, attualmente una piccola azienda, io ho un'azienda agricola certificata, molto semplificata eccetera, e pago 350 euro all'anno di certificazione, ok? Sicuramente l'idea è, però esistono, a seconda di quante più attività fai in azienda o quanto più grande l'azienda aumenta il tuo costo. Un'azienda più piccola della mia, ma che però fa tutto quello che vi ho detto prima, c'è il caseificio eccetera eccetera, arriva anche a pagare 800-900 euro di certificazione annuale, perché c'ha addirittura tre controlli diversi, chi va a controllare le acque, chi va a controllare la trasformazione e chi va a controllare il terreno. Ma mi sentite lo stesso? Sì. Ok. Allora, sicuramente avrà un costo per il produttore, comunque anche un sistema di garanzia partecipativa. Partecipativo di garanzia, io sbaglio sempre, ma ormai ho iniziato con quel modulo c'è Vittorello. E la cosa interessante però è che il sistema è condiviso anche nei costi, cioè come deve funzionare? Che c'è il patto, quindi sottoscrive una dichiarazione il produttore, ma la sottoscrive anche il consumatore, lo sottoscrive chiunque, anche il tecnico, chiunque fa parte di quella aggregazione che porterà avanti il sistema. A questo si può chiedere anche un contributo economico, quindi ovviamente il produttore sa che è un costo che comunque esternamente avrebbe, quindi paga una certa cifra, ma che pagano anche gli altri. Quindi al sistema di garanzia partecipativo contribuiscono come costi tutti gli elementi del gruppo, quindi anche il gas, i consumatori, eccetera. Interessante è studiare, poi c'è anche il rimborso spese, cioè per andare in delle aziende agricole, magari qua siete, ma neanche qua siete fortunati, ma in Liguria, che abbiamo già poche aziende agricole, è una regione estesa tutta in un unico senso, soprattutto nelle zone interne, anche semplicemente i costi di viaggio non sono indifferenti. Quindi un minimo budget per far sì che il sistema funzioni ci vuole. E quindi questo deve essere, come sempre, sostenuto, ma in questo caso in compartecipazione fra tutti gli attori. L'idea è che costi meno, ovviamente, ma che con un costo sicuramente per l'agricoltore c'è comunque. Ecco, l'idea è che ci sia un minor costo di gestione da parte del produttore, cioè che debba compilare meno carta possibile. Ecco, quello sì. Anche se un po' di carta, anche il sistema di garanzia ci sarà. Però deve essere carta che è il sistema che produce, non l'agricoltore. Prego. Scusate, vabbè, io sono un agronomo di base, collaboro con la MAG 2 di Milano e avevo una curiosità, magari sono arrivato tardi, me ne scuso, vorrei capire meglio da chi è nata l'esigenza di questa garanzia partecipativa, dai gas oppure dai produttori, perché per quanto io ne sappia il sistema di certificazione, diciamo quello terzo, l'avete chiamato terzo, non è che proprio sia da buttare via. Ecco, vorrei capire meglio questo passaggio, perché comunque abbiamo detto ci saranno dei costi aggiuntivi per il produttore o comunque, ecco, per la collettività. Cioè, se potete magari un pochettino... Sì. Cioè, c'era anche lui così. Sì. Normalmente volevo capire se i costi sia di quella attuale e di quella partecipativa non cambia, tenendo conto anche delle dimensioni dell'azienda, penalizzati sono i piccoli produttori, esatto. Si certificano non perché non fanno le cose bene, perché non hanno... possono sostenere delle spese di questo tipo. Quindi secondo me è la chiave per la certificazione, altrimenti diventa solo per le grandi aziende. Piccolo e costoso. Ok? Allora, abbiamo fatto un po' di storia prima, e soprattutto dove sono nati i sistemi partecipativi di garanzia, che è il Sud America, quindi legati al colonialismo della certificazione, eccetera. Quindi lì aveva sicuramente un senso. E adesso inizia ad avere un senso anche qua, perché a mio parere, facendo l'agronomo e avendo sempre lavorato anche con le aziende, non ho mai fatto il certificatore, per fortuna, però ho sempre lavorato nel bio, quindi conosco molto bene la burocrazia. Il problema principale per la piccola azienda, io penso che la burocrazia superi il problema economico, prima cosa, quindi è quella che va tolta. Deve autoalimentare la burocrazia. No, dovrebbe essere il sistema che se la fa, nel senso con le interviste, con le cose, con i verbali ben fatti, ma non deve essere il produttore che ogni anno deve autodichiarare quello che fa, eccetera. E quindi questo è il primo problema. Secondo me la certificazione di parte terza, come ho detto all'inizio, è rigida e attualmente, per com'è il mercato del biologico, non risponde a tutte le esigenze. Io ho un'azienda che magari è considerata per la Liguria grande perché è 25 ettari, ma sono tutti boschi e pascoli, e per la Lombardia è piccolissima, e se vado a vedere il fatturato è ridicolo, però come azienda agricola A me sta bene stare dentro il sistema di controlli parte terza, non ho problemi, ho un tecnico bravissimo che mi viene a controllare, che siamo diventati amici, cioè è una situazione assolutamente che non trovo problemi, ma la mia è un'azienda molto semplice, non trasformo. Nel caso iniziale che ho detto, il caso tipico di un'azienda che non sta dentro il sistema è l'azienda mista, quella che proprio piace al territorio del consumatore perché veramente produce tante cose, poche cose e tanto di tutto, che è veramente poi il criterio base dell'agricoltura biologica, no? Cioè quello di avere animali, orto, frutta, il cicli completi che si chiudono in azienda. Ecco, questa ha problemi. Perché come funziona il sistema di certificazione? Che ti chiede le ricette di ogni cosa che tu trasformi. Quindi se tu ti metti a fare passata di pomodoro, marmellate, qualsiasi cosa avete in mente, cose sott'olio, eccetera, eccetera, voi dovete comunque ogni volta, non ogni volta, una volta che presentare le ricette, mettere che cosa fate, le provenienze di ogni singolo prodotto, dove lo prendete, eccetera. È giusto, intendiamoci, è giusto. Se vuoi fare un controllo e avere garanzia per un ente di parte terza, poi se viene un controllo, ricordiamoci, per sapere anche come funziona l'organismo di controllo, non è che c'è solo il controllo dell'ente di controllo, eh? Da me sono già venuti due volte come azienda agricola e funziona, cioè la regione poi va nelle aziende agricole biologiche a controllare come l'ente di controllo ti sta certificando, e lo fanno, seri. Da me sono venuti con il NAS e con l'istituto zooprofilattico, ma hanno preso il mangino e fanno l'analisi OGM. Fanno il 5% delle aziende all'anno, ma le fanno, ok? Quindi le ragioni perché il sistema attuale non funziona, soprattutto per le piccole, è questa. Poi c'è anche un'insofferenza da parte magari di molti produttori a dire: perché io mi certifico che faccio bene e invece chi fa convenzionale non ci si certifica. Non è neanche sbagliato, però ora come ora è molto presto per questo discorso. Facciamo sì che il biologico raggiunga il 30% della produzione europea e poi inizia a dire: perché siamo noi che ci dobbiamo certificare che facciamo bene? Allora, costi in testa agli altri, ma finché adesso siamo 5-6%, sta crescendo, però bisogna avere anche la massa critica per poi cambiare le regole del gioco, no? Comunque non è il sistema di parte terza totalmente da buttare, è rigido, è uno strumento che non è per tutti, e dato che il biologico perché deve essere limitato? Deve essere aperto a chiunque, qualunque produttore voglia fare l'agricoltura in una certa maniera. Quindi se quello strumento non basta, guardiamo ad altri. Sì, non ho molto da aggiungere, devo dire, io credo che non sia tanto un problema se il sistema di parte terza funziona o no, il problema è funziona per chi. Cioè è un sistema che funziona perfettamente per le filiere distributive della grande distribuzione organizzata, basate sulla, come dire, sulla separatezza. Io vado, qualcuno ha messo il bollino e buonanotte. Il tipo di relazione e di obiettivi che ha un gruppo di acquisto solidale che attiva una rete di scambio sul territorio è un altro, di partecipazione, costruzione della rete, di radicamento sul territorio di quel modello agricolo. L'azienda che ha più difficoltà con la certificazione in parte terza, quella che descriveva Alessandro, è esattamente quella che ha in mente il gas quando va a fare la spesa, no? Quella che chiude il ciclo, che ha tutto, che fa anche la salsa di pomodoro, no? Andate a fare la spesa col gas e quella roba lì, non andate dall'azienda che fa solo una cosa, no? Quindi l'altro scopo è quello di in qualche modo far crescere sui territori queste realtà, farle uscire dall'esclusività del rapporto anche con i gas che in alcuni casi hanno, e in qualche modo di radicarle maggiormente. Sul tema della trasformazione c'è anche questo, così magari ve lo andate a cercare, c'è anche la campagna, c'è una campagna di raccolta firme per proporre una legge che si chiama campagna a sostegno dell'agricoltura contadina, che ha proprio questo scopo, di deburocratizzare alcuni passaggi. C'è dibattito su questo, ma a tutti gli agricoltori che abbiamo incontrato in questo percorso citano come più problematica la burocrazia e il costo organizzativo che non il costo economico dell'operazione. Quindi è chiaro che dovremmo, e questo però lo scopriremo facendolo, perché sulla carta non ci abbiamo, non ci siamo riusciti ancora, dovremmo tenere conto della distribuzione dei costi, delle dimensioni dell'azienda, e indubbiamente, anche perché questi sistemi nascono, ce lo raccontava anche bene prima Alessandro, per le aziende piccole butti il prodotto, no? Quindi altre domande? Ma io più che una domanda volevo condividere una riflessione che stavo maturando adesso parlando, mi è venuto in mente proprio parlando, ho sentito parlare di costi, di come alimentare, ecco, sostanzialmente si sta parlando di creare delle reti, qualcosa che vada oltre, creare delle relazioni dirette, quindi forse lo dico un po' ingenuamente, in maniera un po' utopistica, il problema dei costi mi sembra che possa essere tranquillamente compensato da una riduzione, diciamo, tra il gap che ci può essere adesso tra quello che viene corrisposto al produttore e quello che poi paga il consumatore finale, nel senso che adesso c'è un gap, un divario di norma elevatissimo, a parte nei gas dove il rapporto diretto viene totalmente annullato, questo gap, e quindi forse per trovare anche, diciamo, la modalità giusta per remunerare un sistema, un'organizzazione, perché poi alla fine si tratta di creare un'organizzazione fatta di questi individui, può essere comunque il mantenimento di un gap molto ridotto che vada a finanziare, sostanzialmente così tutti pagherebbero sostanzialmente solo quello che effettivamente vanno a fare, uno grande vende molto ovviamente, c'è un margine, e in tal senso insomma lo strumento cooperativo, una nuova forma cooperativa, visto che è finalmente ammesso, con una mutualità mista. Quindi più gestioni mutualistiche, da un lato i produttori che confluiscono, dall'altra parte i consumatori che acquistano, forse potrebbe essere uno strumento interessante, in tal senso mi piacerebbe sapere se si è anche magari già pensato qualcosa di questo tipo, oppure se voi lo gestite tramite un'associazione, mi era parso di capire all'inizio. Noi diciamo, abbiamo fatto questa, poi magari vediamo anche nella Brianza come si stanno organizzando, però noi non siamo ancora... Non abbiamo ancora creato l'associazione. Noi abbiamo fatto la formazione e la sperimentazione andando nelle aziende, facendo una simulazione di commissione di controllo, abbiamo fatto tutti questi lavori qua. Adesso ci incontriamo in contemporanea a fare la cosa giusta a Genova il 16 ottobre, mi sembra, e lì vorremmo mettere le basi, perché è un sistema che ci interessa. E allora lavorarci su. E quindi capire anche dal punto di vista finanziario, dal punto di vista organizzativo, come porre la cosa e come farla crescere, quindi l'associazione, eccetera. Quello che dici te è comunque una delle vie. Questo è un tema, sarà un tema della sperimentazione. Noi oggi come dire, l'assorbiremo dentro la struttura formale dei distretti, di economia solidale, che sono tipicamente delle associazioni, quindi utili, per fare la sperimentazione utilizzeremo quel chiamiamolo, insomma, quella casa, e lì ci staremo. Poi bisogna vedere, bisogna capire anche se prendi l'esempio francese, è un'associazione. Sì. L'associazione Nature e Progresso. Sì, sì. È un'associazione di rilevanza nazionale, quindi, insomma, dipende da come va. Va bene. Un'altra domandina così lampo per capire. In generale, i gas. Sono d'accordo sul concetto di biologico degli enti certificatori. Non siamo enti certificazione. Dell'AIA. Ah, non siamo enti certificazione. AIA non certifica, cioè era un enti certificazione nel 2000. Dal 2000 abbiamo separato le cose, proprio non abbiamo mai avuto a che fare con la certificazione dal 2009. Quindi rappresentiamo i produttori. Meglio. E poi la domanda così posta, sarebbe strano perché chiedere cosa pensano i gas è una, come dire, è una presa persa in partenza. Devi chiedere cosa pensa ogni gasista dentro il suo gas quel giorno, è una roba un po' più difficile da terminare. No, forse non avevo risposto una parte della domanda, se interessa più i produttori e i gas. Devo dire che ora come ora la sensazione è che interessi più i gas. che la mia. Nettamente. Io sono in un gas di Milano, sì. Non l'avevo detto. Allora, però abbiamo dei produttori che sono interessati, sono dei produttori, e ce ne sono, che sono usciti a sistema di controllo perché non lo reggono più così com'è. Però se dobbiamo quantificare l'interesse, per adesso c'è più dei gas, quindi c'è anche un bel po' di lavoro da fare presso le aziende. Perché un'azienda che si certifica ovviamente non è che sia, che non possa stare in un sistema anche di partecipativo di garanzia, ci può stare benissimo anche se è certificata e mantiene le due cose. Perché ad esempio noi abbiamo detto, cioè ci sono le aziende che fanno tanta vendita diretta ma che poi vendono anche ad altri perché vanno nei negozi eccetera eccetera, questo non è propriamente da abbattere. Quindi in questo caso hanno bisogno comunque della certificazione di parte terza per andare altrove. Okay, quindi ci possono essere benissimo aziende che poi aderiscono a entrambi i sistemi. Va bene, io direi che possiamo concludere l'incontro. Vi ricordo solo due appuntamenti che abbiamo come AIAB. Uno domani, se vi interessa, continuiamo la discussione, parleremo di sovranità alimentare, nel senso che ad agosto c'è stato questo convegno internazionale in Austria che ha definito, delineato, diciamo, una piattaforma di tutte le associazioni ambientaliste che si occupano di sovranità alimentare, e domani avremo il resoconto di questo incontro e discuteremo di questo argomento. Poi come AIAB nazionale noi avremo il nostro congresso a dicembre, quest'anno lo faremo a Milano, e la certificazione è uno dei 10 temi su cui il congresso di AIAB andrà ad approfondire le tematiche. La data non l'ho detto, dal 1 al 4 di dicembre. E poi, giusto, e poi c'è, ricordiamo, Cumin dal 15 di ottobre al pomeriggio, sempre questo incontro dei gas con AIAB, lì a Cumin dalla Cascina Cuccagna. Io concludo, se ci sono delle persone che non hanno firmato la presenza, perché come AIAB ci interessa anche quello. Vi ringraziamo e per chi c'è ci vediamo domani.